ovviamente il risultato dell'asta è stato ottimo. Se lo guardiamo poco prima dell'asta, il triennale viaggiava intorno all'8,05, subito dopo l'asta è stato emesso intorno al 7,89 e addirittura è sceso anche addirittura dopo l'asta, quindi siamo andati, quindi visto proprio nella giornata di oggi il rendimento è stato tra virgolette eccezionale, molto molto buono. Anche i titoli a 10 anni sono stati piazzati al 7,56 e 7,28 il 2020, quindi rendimenti riferiti alla giornata di oggi comunque buoni. È logico che non devono essere visti in un contesto tra virgolette mensili, perché comunque fanno più paura. Adesso la cosa importante è che abbiamo ancora altre due aste da qui a fine anno, dobbiamo mantenere lo stesso livello di credibilità, perché non possiamo permetterci di non andare sul mercato, sono circa 16,6 miliardi, è importante soprattutto mantenere questa situazione di fiducia in questo momento.